9 in punto. Reno 4 all'avventura, una macchina super sicura. Dalle sabbie sahariane alle foreste africane, col suo piccolo appetito. Allora, buongiorno a tutti. Non è colpa mia, è colpa di Carmelo Lauricella in regia, che ha pescato questo spot della Renault 4, insomma, no? Di molti anni fa. 81 mi dice, 81. E questo era lo spot della Renault 4, va bene, oggi ci prendiamo un attimo di respiro dalle vicende italiane e vogliamo parlare di Papa Francesco, di Bergoglio. Ne vogliamo parlare perché innanzitutto siamo ad una scadenza che può essere considerata importante, naturalmente non per i tempi della Chiesa, per carità, però insomma domani sono 6 mesi di pontificato sostanzialmente, perché ieri ha scritto questa lettera, questa lunga lettera a Repubblica di Eugenio Scalfari, una lettera indirizzata ai non credenti, e perché ne leggiamo continuamente di questi atti interessanti, insomma. Ieri contromano senza cintura sulla Renault 4 donatagli da un parroco di Verona, l'autoscatto fatto insieme a un gruppo di giovani che ha fatto il giro dei social network, gli incontri con la gente, il rifiuto della scorta, tutto questo è quello che esce fuori e che leggiamo sui quotidiani e che vi raccontiamo naturalmente anche nei nostri giornali radio di quello che sta facendo questo Papa. Poi c'è un fronte interno, naturalmente, altrettanto importante, che è la riforma delle finanze vaticane, la riforma della curia. E poi ci sono naturalmente le questioni dottrinali. Naturalmente non potremo affrontare tutto nel corso di questa trasmissione, com'è perfettamente naturale, però non possiamo non registrare che intorno a questo Papa si raccoglie un consenso quasi unanime, anche dagli ambienti che storicamente si oppongono alla Chiesa, gli ambienti laici per eccellenza. Insomma, sembra che tanto quanto Ratzinger a questi ambienti stava antipatico, così Bergoglio sta simpatico per tutta una serie di motivi. E allora vogliamo partire con vogliamo chiamarlo una provocazione? Forse non lo è nemmeno troppo. Pier Giorgio Di Freddi, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei dice: ridateci Ratzinger, ha scritto sul suo blog. Come mai? In realtà lei ha detto, credo, gli aggettivi giusti, cioè simpatia o antipatia. Io sono perfettamente d'accordo sul fatto che forse Ratzinger, che era un uomo di studi, perché è ancora vive, non fosse vegeto, ma comunque vivono, e diceva appunto, forse non appariva molto simpatico alla gente che invece si aspetta atti come quelli che Bergoglio sta facendo. Quindi dal punto di vista della simpatia non credo che ci sia nessuna discordia tra i commentatori, e io posso accettare. Penso però che siano tutte le cose che lei ha citato questa mattina, dall'autoscatto per esempio, no, al non mettersi la cintura di sicurezza, al portare l'anello d'argento invece che l'anello d'oro e così via, siano aspetti completamente superficiali. Io fui molto colpito dopo la sua elezione quando il cardinale di New York disse a coloro che già ormai incominciavano, no, a entusiasmarsi del nuovo Papa, disse: non aspettatevi cambiamenti del prodotto, così disse lui, ma aspettatevi cambiamenti della pubblicità. Ecco, io credo che Bergoglio sia un ottimo pubblicitario per il prodotto che rimane tale quale, e infatti nel momento in cui deve affrontare questioni che hanno a che fare con diciamo così la dottrina, per esempio l'aborto, la vita fin dal primo momento del concepimento, che erano appunto stendardi, vessilli del pensiero anche ratzingeriano, lui li ha ripetuti esattamente nello stesso modo. Quindi sono cambiamenti formali ma non sostanziali. Va benissimo che lui li faccia e benissimo che ci sia un Papa simpatico, ma non credo che per questo motivo la Chiesa quindi cambierà molto. O Di Freddi, un'operazione di marketing secondo lei? La Chiesa è anche, se non dico soprattutto, anche se forse un po' vorrei dirlo, no? Ma è anche questo certamente, cioè è la vendita di un prodotto che per loro è un prodotto importante, ovviamente loro lo identificano col Vangelo e con la verità, anche se nella lettera di ieri il Papa dice che non considera le verità della religione come assolute, addirittura ha detto questo, no? Però poi si smentisce tre righe dopo, perché appunto, no? Un conto è fare le affermazioni di principio, un conto è poi invece entrare direttamente nei problemi. Allora, con questo partiamo. Naturalmente ospiteremo nel corso della trasmissione anche opinioni differenti, come è naturale che sia. Stiamo raggiungendo un paio di persone, tra poco avremo anche Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana. Soprattutto aspetto le vostre opinioni all'800 24 00 24, sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24. Scrive Stefano: è fantastico il modo di porsi, quello di agire tra la gente, rianimare l'interesse delle popolazioni che negli ultimi decenni erano apatiche nei confronti della Chiesa. Il Papa è un esempio saggio di come dovrà essere svolta la politica del futuro, addirittura sempre che ci sia l'intenzione di coinvolgere il popolo da parte di chi politica la fa. Diego invece scrive: Papa Francesco è la migliore operazione di marketing degli ultimi 15 anni. Stefano, un giudizio più complesso e più attendista: la Chiesa ha bisogno di un pastore e di un amministratore stile buon padre di famiglia. Nel medio termine il Papa si sta muovendo bene, vedremo poi come sarà sul lungo termine. Carlo Marroni, che si occupa di vicende vaticane ormai da anni per il Sole 24 Ore. Buongiorno Carlo, benvenuto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Allora, sotto in realtà questa patina, no, che potremmo, che Odifreddi definisce sostanzialmente di marketing e che altri, tra poco li avremo, invece definiscono come un agire normale, perché dicono lui è un tipo così, insomma agisce in questo modo, in realtà poi c'è tutta una questione di sostanza e di questioni interne vaticane sulle quali Francesco sta agendo con incisività. Ma naturalmente, ricordiamoci che quando si è tenuto il conclave, la Chiesa intesa come Vaticano, come Curia, era oggettivamente sull'orlo del baratro, e lo sappiamo tutti per le cronache di quello che era accaduto, probabilmente è per quello che Ratzinger Ratzinger ha rinunciato al ministero petrino. Chi lo ha eletto sapeva che Bergoglio era questo, quindi diciamo non è una sorpresa per chi lo ha eletto, sapeva qual era il suo agire a Buenos Aires e quindi è stato eletto anche per quello. Secondo, perché è un scherzando molti lo chiamano il parroco, sì, si comporta da parroco, ma parte è un gesuita, e questo diciamo è anche una garanzia di un tipo di percorso, diciamo non proprio esattamente da parroco di campagna, ma è il suo modo di agire tra la gente. E poi è in sostanza, cioè, naturalmente c'è un modo di agire pubblico, ed è quello che lo sta rendendo un'autorità morale oggettiva, non è un'opinione, questo è un fatto, un'autorità morale mondiale. L'unico ha alzato la voce sulla guerra con un programma, con un'agenda, per parlare della Siria, per cui molto più dell'Unione Europea, probabilmente più delle Nazioni Unite. E questo quindi sta anche un po', come dire, facendo vacillare un mondo che alla Chiesa guarda anche con diffidenza, perché non crede, eccetera. Insomma, qui sta assumendo un ruolo ben oltre la fede. E poi c'è la questione di sostanza. Lui non sta agendo da marketing e basta, almeno questo è quello che sappiamo. E lui in 6 mesi ha avviato riforme, ha messo le mani nel piatto molto più di quanto aveva fatto Wojtyla, non Ratzinger, Wojtyla. Quindi stiamo parlando di... naturalmente sono tutte azioni che devono essere portate in fondo, la riforma della curia, il cambio di passo sulle nomine e tutto quanto quello che verrà dopo. Sappiamo che il denaro, attorno al denaro e attorno anche ai comportamenti privati di alcuni singoli preti o monsignori si consuma la grave crisi della curia. Beh, su questo lui ha messo le mani proprio dentro. E proprio a breve, cioè 1 ottobre ci sarà la prima riunione dei cardinali che devono parlare della riforma, ma proprio domani o dopodomani si discuterà di riforme vaticane in una nuova riunione. Si va proprio a incidere là dove la Chiesa è maggiormente criticata, e quindi questo diciamo è sostanza. Margherita dalla provincia di Milano, la nostra prima ascoltatrice che ci ha chiamato, buongiorno. Premetto che questo mio intervento mi crea personalmente un problema morale, poiché sono una cattolica osservante e tengo molto anche alla mia religione. Quindi per me criticare, tra virgolette, un Papa è un'azione grave. Detto questo, però, siccome devo rispondere anche davanti alla mia coscienza pensante, prenderò un punto fra tutti, perché se no il discorso potrebbe essere lungo. Questo atteggiamento così promozionale, direi, una brutta parola, ma insomma è quella che mi viene, di questo Papa attuale, manca però di un punto secondo me importante, cioè manca il richiamo ai doveri da parte di tutti, e sottolineo anche da parte degli immigrati, anche a parte dei clandestini, anche a parte di coloro che dobbiamo accogliere e che accogliamo, anche questo lo sottolineo, con sacrificio, con difficoltà e a volte anche con gravi conseguenze. Questo non si è automaticamente buoni e giusti perché si è extracomunitari e perché si è poveri, manca questo aspetto e questo richiamo che secondo me è importante. Mi domando perché, e sono francamente turbata da questa cosa, e lo ripeto, mi crea molta perplessità e anche un caso di coscienza importante, insomma. Ecco, detto questo, ho detto quello che penso, e che però traspare, che però è quello che è pubblico, è quello che si vede, è quello che abbiamo sotto gli occhi. Noi poi viviamo la vita reale dall'altro canto, viviamo le difficoltà che abbiamo. Questo, grazie. No, io la ringrazio Margherita, ma io penso che questa sia quasi più, poi insomma, c'è sfuggito, come dire, l'ospite, per così dire, aperte virgolette, religioso nella prima parte. Ce l'avremo a partire dalle 9:30, Don Sciortino, però mi sembra quasi più una questione dottrinale che una questione che riguarda strettamente il Papa. Comunque interessante come osservazione. Francesco da Pisa, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io semplicemente volevo, così, il mio modesto avviso, sottolineare un aspetto rivoluzionario di questo Papa, cosa che secondo me un po' sfugge ai più, voi perché forse non ci siamo abituati a sentire, come dire, a vedere poi, di cercare di applicare quelle che sono, come dire, i dettami del Vangelo, e quindi lui praticamente ha voglia di quell'altro, non so, prelato che così in maniera anonima ha detto, dice, quando la smetterà di fare il parroco e inizierà a fare il Papa. E lui secondo me sta facendo bene a fare il parroco, intanto, cioè sta riportando a una dimensione comprensibile da parte di tutti, dovrebbe essere almeno, in quanto lui sta facendo secondo me in pratica da ponte, no? Tra chi ha e chi non ha, perché dal momento in cui lui comincia a dire, e quindi parte dalla Chiesa, e dicendo per esempio i conventi e quelle vote, insomma, apriamole e diamo possibilità abitative, magari lo dovrebbe estendere anche agli italiani, visto la crisi che c'è in atto e che è gravissima in Italia, non credo che ce ne usciremo in breve tempo, chiaramente. Poi, per cui questa promozione io credo che sia tutto sommato legittima, e grazie, magari definirla con questo termine un po' brutto secondo me, cioè promozione, cioè noi siamo ormai tanto presi dalle promozioni, insomma, che omologhiamo tutto. Grazie Francesco per la sua osservazione. Io voglio girare questa osservazione ad Odifreddi insieme ad un'altra. Mi scrive Pierluigi, sempre sulla nostra bacheca Facebook, che lei le fa i complimenti perché dice uno studioso che stimola il pensiero. Quello che dice sul Papa può essere condivisibile, ma non concordo quando dice che questo Papa non incide sulla sostanza. Certamente non ci si può aspettare che modifichi la fede che professa e diffonde, ma sta modificando gli atteggiamenti materiali che molti uomini di fede manifestano e che sono in aperta contraddizione con la loro stessa fede. E specifica Pierluigi, tra l'altro, che ci scrive da laico. Ecco, questa mi sembra, di Freddi, una notazione interessante, a dire il vero, e riconducibile, se vogliamo, anche a quello che diceva Carlo Marroni, cioè il porsi come autorità morale. Ah, sicuramente, se poi alle parole seguono i fatti, effettivamente la cosa potrebbe essere così, però d'altra parte questo è un periodo, per esempio anche in Italia, in cui si fanno le battaglie, tanto per dire, sui simboli del potere, che sono ad esempio le auto blu. Beh, il nostro governo naturalmente le ha tagliate radicalmente, eccetera. Per quanto ne so io, non credo che le auto blu del Vaticano su cui viaggiano i cardinali, no, i vescovi, eccetera, non siano state tagliate. Cioè, le parole sono ottime, ma non so quanto poi a queste parole seguono i fatti. Lei prima ha citato per esempio l'azione sullo IOR. Beh, quello è stato per esempio uno dei momenti in cui si è vista la debolezza anche delle decisioni del nuovo pontefice, il fatto di aver scelto un monsignore come Battista Ricca, che soltanto perché era direttore della Casa Santa Marta e quindi aveva accesso nelle prime settimane dopo l'elezione al nuovo Papa, e averlo messo come uomo di fiducia del Papa per quanto riguarda appunto i cambiamenti del IOR, e poi bastava andare su internet e scoprire gli scandali che stavano dietro a questo monsignore. E tra l'altro qui si vede anche la differenza tra la pubblicità, il modo in cui i media riportano le cose e la sostanza. Quando il Papa fece la sua famosa dichiarazione sugli omosessuali, che fu riportata dai giornali di tutto il mondo, no? Come un'apertura, quando lui disse: chi sono io per giudicare se uno è omosessuale, quando poi in realtà può seguire la via del Signore. In realtà quella era la risposta in un certo senso imbarazzata del Papa a un giornalista che gli chiedeva: ma scusi, lei ha messo un monsignore come Ricca, no? Che è un noto omosessuale, che era caduto in scandali tra l'altro palesi, no? In Uruguay dove lavorava, ed era stato rimosso, no? E come mai poi lei l'ha preso come uomo di fiducia? E effettivamente questo fatto di voler aggirare per esempio appunto in questo caso le gerarchie e la segreteria di Stato fa sì che si prendano magari personaggi che sono perlomeno chiacchierati, come in questo caso. Effettivamente l'idea, quando si dice fa il parroco, no? E incomincia a fare il Papa, credo che la critica, no, dall'interno sia proprio questa. Cioè, fare il Papa non è soltanto appunto non far prendere delle posizioni o fare decisioni senza pensarci troppo, ma è anche andare molto col piede di piombo, diciamo così, e conoscere soprattutto le situazioni, studiare le carte, allora, e così via. Non so quanto questo lo farà. Allora Di Freddi, io la interrompo perché immagino che Carlo Marroni invece su questo, soprattutto sulla parte dello IOR, abbia molto da dire. Carlo. Certo, sulla vicenda di Monsignor Ricca, lì la questione è stata appunto chiusa dal Papa nel viaggio di ritorno da Rio, dicendo appunto: non voglio più giudicare queste vicende se sono avvenute. Quindi certo, quello che diceva Di Freddi è, diciamo, c'è un fondamento naturalmente, perché la questione è stata dibattuta. In ogni caso, e questo io però su questo non sappiamo un po' qual è il prosieguo della vicenda, sulla questione più generale dello IOR lui sostanzialmente ha fatto fuori tutti i vertici a cui erano addebitate, diciamo così, vero o falso, i comportamenti, diciamo, poco corretti o per niente corretti sul comportamento dello IOR, li ha azzerati. Lo IOR in questo momento è sostanzialmente commissariato da una società esterna sotto la supervisione del Papa, diciamo così, per fare pulizia, in attesa dell'arrivo, e qui sì che ha governato in maniera molto seria da capo di Stato, con la nomina del nuovo segretario di Stato, che è a giudicare da tutti, e devo dire, noi del Sole 24 Ore l'abbiamo detto, permettimi di rivendicarlo, da marzo, il migliore, diciamo, prodotto della segreteria di Stato, cioè Monsignor Parolin, che andrà a fare il segretario di Stato, diciamo così, e quindi su quello, diciamo così, ha nominato un capo di governo che lui sì che governerà, insomma, non per, diciamo, verosimilmente, augurabilmente, senza tutti gli incidenti enormi che si sono commessi negli ultimi 5 anni sotto la gestione Bertone. Sullo IOR, naturalmente, Bergoglio non vuole chiudere lo IOR, questo è sicuro, perché sa che è il modo giusto per far convogliare risorse. Lui stesso, quando l'Argentina andò in default, stiamo parlando del 2000, la Curia di Buenos Aires era in difficoltà come tutto il paese, lo IOR intervenne positivamente ad aiutare l'arcidiocesi di Buenos Aires per risollevare e ridare, diciamo così, risorse per fare quello che doveva fare. Quindi, diciamo, lui non vuole chiudere lo IOR, vuole fare quello che dice l'intestazione, e cioè istituto per le opere di religione, cioè chiudere la banca d'affari, la Merchant Bank, che voleva comprare ospedali e che fa investimenti in titoli rischiosi, tutto quello che è accaduto negli ultimi 10 anni o più, e tornare a fare, diciamo, quello che era, cioè un deposito di soldi delle congregazioni religiose e farli arrivare alle missioni invece che in altri posti. Questo è quello che vuole fare, e su questo c'è una commissione d'inchiesta proprio sullo IOR, che ha pieni poteri, che sta facendo luce su tutto. Questo è un fatto, diciamo così, epocale, perché lo IOR, la caratteristica dello IOR era la segretezza, ma non nei confronti dei giornalisti italiani, questo può essere anche, come dire, credo, normale. Ma all'interno del Vaticano, è un'isola che non interagisce con il resto della curia, e questo lui l'ha spezzato, questo è oggettivo e naturalmente dovrà poi arrivare a compimento. A compimento, naturalmente. Allora, noi abbiamo una pausa, poi abbiamo parecchie telefonate che stanno arrivando, mi dicono di vario genere, insomma, no? Un SMS che arriva: la Chiesa ha capito di aver bisogno di un Papa così e lo ha trovato in 2 giorni, la politica non c'è ancora arrivata. Ok, questo è un discorso che abbiamo già fatto quando fu eletto Bergoglio 6 mesi fa. Diciamoci anche che il Vaticano è una teocrazia e noi siamo una democrazia, diciamo i meccanismi sono forse un filino più complessi. Comunque il ragionamento ci sta, se vogliamo, eh. 9 in punto. Eccoci di nuovo, Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, prima di sentire lei, voglio sentire ancora un paio di ascoltatori. Pasquale da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Prego. Volevo intervenire brevemente sulla questione del Papa. Sì, diciamo che questo Papa qua è molto commerciale, diciamo, sa vendere se stesso e la Chiesa. Da buon gesuita appartiene ad una classe, un ordine che diciamo si è sempre distinto da diciamo le fazioni interne cattoliche eccetera eccetera, quindi comunque lui... Pasquale, ma dov'è? Dentro una fabbrica, dov'è? No, sono con l'auricolare, sono per strada. Sento un casino di sottofondo. Sono in pavia, sono tra la mente, niente. Comunque riguardando lo IOR si sa che ha riciclato tutti i soldi eccetera eccetera, come diceva Macincus, non si può campare solo con l'Ave Maria, giustamente. Però una riforma ci voleva, speriamo che magari questo Papa, parlo da ateo, io non mi misto nelle faccende dei cattolici, speriamo che magari riesca a fare qualcosa, tutto qua. Grazie Pasquale. Stefania da Milano. Stefania sempre da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io volevo intervenire anche in merito sul discorso di Offredi, sempre sul che secondo me non è un'operazione di marketing, perché è un testimone vero, credibile, è il suo messaggio sulla vera fede che arriva dritto al cuore di ogni uomo, e questo mette in crisi soprattutto chi non ha fede, perché lascia a ciascuno la libertà, perché il fatto di decidere, che lui non è nessuno per decidere sui gay, questo libera tutti, cristiani e non cristiani. Questo è fondamentale. La libertà non è una persona sprovveduta, Papa Francesco, come si vuol far passare in più interventi che ho sentito. È una persona che sa profondamente del cristianesimo e conosce profondamente il Vaticano. Per cui questa cosa è fondamentale, capire che libera ciascuno di noi e ci mette a noi di fronte a Dio, che è l'unica persona che può giudicare. Grazie Stefania anche per il suo intervento. Allora, Don Sciortino ha sentito due interventi di segno opposto. Abbiamo avuto in apertura, immagino non abbia avuto la possibilità di ascoltarlo, abbiamo avuto in apertura ancora con noi Odifreddi, insomma, con il quale si diceva, beh, insomma, è una discreta, e ci perdoni se ne sembrerà sconveniente, però insomma ne parliamo laicamente qua, insomma una discreta operazione di marketing, Papa Bergoglio. Ma mi pare davvero molto riduttivo ridurre questa presenza del Papa e della Chiesa a una questione di marketing, anche perché credo che Papa Francesco sia quanto di più distante ci sia da questione di marketing. Io credo che la sua sia una testimonianza vera, reale, coerente, e che sia riuscita a toccare il cuore della gente, perché si è messo in mezzo alla gente, ripropone un po' quella che era la Chiesa, popolo di Dio. Anche ieri nell'udienza ha detto: la Chiesa siamo tutti noi, non sono i preti, i vescovi, il Papa, siamo tutti con la stessa dignità in forza del battesimo. Era quello che il Concilio Vaticano II aveva riscoperto: la Chiesa come popolo di Dio fatto dai battezzati, tutti con la stessa dignità, con la stessa missione, pur avendo differenti ruoli e mansioni all'interno della Chiesa. ma alla vocazione, alla santità e alla missione è uguale per tutti. Quello che noi non abbiamo capito e per cui in questi 50 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II abbiamo nuovamente riportato la Chiesa a quella società chiusa, autoreferenziale, come appunto denuncia il Papa, che fin quanto sta chiusa si ammala e allora deve aprirsi alla gente, deve annunciare il Vangelo, ma con una testimonianza concreta di vita, perché giustamente dice il Papa non si può annunciare la povertà se non la si vive e quindi bisogna testimoniarla. E questa credibilità e questa capacità di arrivare alla mente, al cuore della gente, spiega un po' la popolarità, la vicinanza di credente e non credente. Io mai come in questi tempi ho avuto diverse così espressioni di non credente che insomma cercano di interessarsi alla Chiesa, ma questo l'aveva voluto il Concilio Vaticano II. La Chiesa prima era chiusa, una società in sé perfetta, ma chiusa, autoreferenziale. La grande novità del Concilio è l'apertura della Chiesa al mondo, ma anche l'attenzione del mondo alla Chiesa. Questo dialogo che ha fatto con Scalfaro è significativo. Si può fare un tratto di strada assieme, pur avendo anche convinzioni diverse, ma la distinzione, come ricordava il Cardinale Martini, non è tra i credenti e non credenti, la distinzione dovrebbe essere tra i pensanti e non pensanti, perché oggi il vero dramma è l'indifferenza, questa impermeabilità a qualsiasi discorso che abbia a che fare con dei valori. Nicola da Belluno, buongiorno. Buongiorno. Prego. Anch'io intervengo da Ateo. A proposito di... Aspetti, la fermo. O di Freddi, ce li ha chiamati a raccolta. Chiamano... Io non ho fatto nessun proclama, non so perché... chiamano però... tutti. Aspetti. In realtà a volte ci si stupisce che ci sono, anche perché gli altri hanno poca visibilità, naturalmente, no? Perché siano il 15% in Italia. Allora sentiamo Nicola. Prego, Nicola, buongiorno. No, in realtà voglio contraddire Odi Freddi su un punto, nel senso che se è un'operazione di marketing lo scopriremo, cioè non possiamo pretendere che in 4 mesi poter dare un giudizio così tranchant, però questo lo lascio a parte, insomma, e quindi attendo un po' di più per assecondare questo giudizio di Odi Freddi. No, la cosa che mi premeva dire era il paradosso che, al quale ho assistito anche stamattina sentendo la radio l'intervento della signora Milano a proposito dell'accoglienza dei migrati. E siccome effettivamente l'effetto che ha avuto questo Papa su di me è quello di farmi rileggere il Vangelo, mi stupisce il paradosso per il quale trovarsi un Papa che ripete delle cose paro quelle che diceva Gesù spiazzi in realtà tutti quei cattolici che sono abituati a una versione della Chiesa così, sì, si può accogliere, ma cioè le condizioni, Gesù non poneva delle condizioni per accogliere l'altro, no? E questo è un po' il paradosso. Qui adesso abbiamo un Papa che invece di fronte al diverso dice il diverso va accolto, senza se, senza ma. Tutto qua, questo è un po' il paradosso, no? E quindi lei dice di Cristo, mi scusi Nicola, lei dice c'è tutto un pezzo del mondo cattolico che si sente spiazzato. In effetti sono arrivate molte critiche dagli ambienti tradizionalisti di destra, Carlo Marroni, no? È così? Questo è il tema interessante, cioè questo però lo si vede più su Twitter, sui blog, perché insomma sono ambienti molto anche hanno timore a venire fuori più di tanto, tutta questa sua, diciamo così, anche derubricazione degli aspetti esteriori, su cui Ratzinger oggettivamente era molto attento, anche il vestire, le cerimonie, e qui è stato spazzato via tutto, e quindi tutto questo mondo tradizionalista che comunque esiste, si sente spiazzato. Infatti questo è interessante, anche la tua trasmissione, Simone, cioè chiamano gli atei perché è lì che ha richiamato l'autorità morale che oggettivamente sta creando, insomma, il papato in questo momento, ricrea un consenso nelle aree dove prima non ce l'aveva, e al contrario però quelli che lo contrastano oggettivamente sono una minoranza destinata a essere sempre più minoranza. La signora che ha chiamato dal Veneto, e cattolicissima, naturalmente poneva una questione politica. Gli immigrati, dice il Papa, è andato a Lampedusa in qualche modo, come dire, dando un marchio di fabbrica a un fatto che la legge italiana reputa un reato, cioè l'immigrazione clandestina. Dice, allora noi perché non lo facciamo in Vaticano? Il Vaticano non pensa a se stesso. Ma questa è una classica, diciamo così, motivazione fatta dagli ambienti che prima, quando la Chiesa si occupava della politica italiana in maniera, diciamo così, sbagliata, se non terrificante, sappiamo cosa è accaduto nei primi anni della precedente legislatura, e invece quella era vista bene come un'ingerenza, diciamo, tradizionalista o conservatrice, che ora non c'è più. E anche questo è il fatto. Ricordiamoci che l'ingerenza o la presunta ingerenza della Chiesa sulla politica italiana è un fatto completamente scomparso dal radar. Questa è una cosa che dobbiamo anche dire. Cioè, l'elezione di Bergoglio, diciamo che o almeno Carlo o almeno non se ne parla più, diciamo, ecco. Non solo non se ne parla più, ma siccome da parte della curia romana non c'è più, diciamo così, l'imprimatur ha la possibilità di mettere bocca da parte, per esempio, della CEI, la CEI non lo fa più perché sa che non c'è più neanche una copertura, forse non gli interessa neanche più, è cambiato il mondo, si sono tenute delle elezioni politiche italiane e tutto quello che sta è accaduto dopo il Presidente della Repubblica, il governo nato, eccetera, senza che un vescovo avesse detto una parola. Se ci ricordiamo, qualche anno fa sarebbe stato un continuo di interviste, di interventi televisivi. È veramente cambiato il mondo da questo punto di vista. Questo, e anche questo è un aspetto interessante. Positivo, Don Sciortino, in un minuto, perché poi abbiamo una pausa per la viabilità, poi ci ritroveremo. È una chiesa più di sinistra quella di Bergoglio, lo possiamo dire, su? Ma guarda, queste distinzioni di sinistra e di destra non hanno assolutamente nessun senso, ammesso che l'avessero avuto anche in passato. Questa è una chiesa che sta vicino alla gente, sta in mezzo alla gente, quindi come dovrebbe essere vicino ai poveri, è una chiesa povera che deve dare una testimonianza del Vangelo. Il Vangelo annunciato nella sua radicalità, annunciato nella sua essenzialità. Diventa impressionante che semplicemente annunciare il Vangelo si può fare una grande rivoluzione, così come è stata quella che ha cominciato Papa Francesco, ma nella semplicità e nella coerenza. Non credo che abbia né mire né intenzione di essere vicino alla destra o alla sinistra, che sono categorie che non gli appartengono, che non appartengono alla Chiesa. È universale. Quel discorso che dicevate sulla politica, forse impropriamente la Chiesa si inserisce in questioni più partitiche. La Chiesa deve essere, la Chiesa come istituzione deve essere al di sopra, sui valori. Certo. La sua posizione è quella di annunciare i valori. Allora, voglio sentire, prima di andare alla viabilità, Maila da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Posso parlare? E come no? Sì, io appunto penso che, dicevo appunto prima alla signorina, che se il signor Odifreddi fosse stato ai tempi di San Francesco, e vedendo il suo comportamento avrebbe pensato che lui era un'operazione di marketing. Ah, mi piace. Provocazione che mi piace. Facciamo rispondere Odifreddi, ma subito dopo la viabilità. 9 in punto. Qualche sms anche, poi faccio rispondere Odifreddi a quello che ci ha detto l'ascoltatrice da Prato. Allora, per i cattolici Bergoglio è il pastore di cui avevano bisogno, per gli atei si tratta di un pifferaio magico che attira per educare, c'è posto per tutti col massimo rispetto, scrive Cristina. Ancora, scrive Enzo da Milano, il Papa deve arrivare alle coscienze e questo fa. Quasi siamo sul filo della battuta. Se Papa Francesco parlasse con accento tedesco risulterebbe meno simpatico agli italiani. E vabbè, sicuramente Francesco colpisce, scrive Mike da Feltre, colpisce anche le persone che si sono allontanate dalla Chiesa da tanti anni fa, come è successo a me. Allora, Odifreddi, ha sentito cosa ha detto l'ascoltatrice da Prato? Ho sentito anche quello che ha detto Don Sciortino, però io rimango perplesso, perché Don Sciortino per esempio dice questa è la Chiesa dei poveri, ma è la Chiesa, per quanto ne so io, è quella che c'era 6 mesi fa. Il fatto che il nuovo Papa si chiami Francesco, cioè, non è che fa diventare automaticamente la Chiesa francescana, tra l'altro nemmeno la sua vita è la vita di un francescano. Se voleva, per esempio, poteva andare a vivere in un piccolo convento, no? E invece rimane a vivere ovviamente, no, in Vaticano. Come dicevo prima, sono atteggiamenti che certamente possono attrarre l'attenzione, no? Però non mi sembra che ci siano stati dei cambiamenti sostanziali, non ho visto dismissioni di capitali per esempio, non ho visto proclami che dicono lo IOR lo chiudiamo e i miliardi di euro che abbiamo nelle casse li distribuiamo ai poveri. Ho sentito invece dire giustamente faremo un po' diverso, no? e faremo opere per l'appunto di sostegno alla religione. Quindi certo, se ci fosse effettivamente un Francesco d'Assisi diventato Papa, allora le cose probabilmente cambierebbero, no? La mia critica è, come dicevo prima, no? Che si tratta di atteggiamenti superficiali. Vedremo se poi effettivamente ci saranno dei cambiamenti radicali, no? Se la Chiesa, per esempio, no? Appunto, incomincerà a dar via per esempio i suoi averi. Ma fino a quando si continuano a mantenere, no? I capitali e a gestirli magari in una maniera leggermente diversa, non credo che cambierà molto. Ma se posso, vorrei solo fare una piccola aggiunta a quello che si diceva poco fa, che non c'è più l'ingerenza della Chiesa, no? Nella politica, a parte che poi queste cose si scoprono spesso, no? In seguito, però non ci dimentichiamo che non ce n'è nemmeno bisogno con un governo di questo genere, ci sono ministri di Comunione e Liberazione al governo, Letta è ovviamente, no? Un cattolico praticante, arriva dalla Democrazia Cristiana, no? Questo governo in particolare, no? fa gli interessi della parte cattolica, no? Della nostra popolazione automaticamente, senza che ci sia bisogno di nessuno che glielo faccia fare. E quindi di nuovo la politica continua ad essere, poi tra l'altro se veniamo dal mese di agosto, dove c'è stato ovviamente il meeting di Rimini, no? E mi sembra che i politici siano accorsi di nuovo, no? Ai meeting di Rimini, proprio perché in particolare, no? Appunto, alcuni ministri sono addirittura di Comunione e Liberazione. Anche qui io non vedo dei grandi cambiamenti, forse certo c'è un cambiamento nel senso che non c'è più Cardinal Ruini che faceva direttamente, no, da tramite tra il Vaticano e il sistema politico. Allora, voglio far rispondere Don Sciortino anche ad una domanda che ci arriva da un ascoltatore perché è una perplessità che inizia un pochino a sentirsi sotto traccia, no? Dice, ci scrive Alessandro, mi convince la sua ostinazione a rinunciare ai privilegi di Papa. Benedetto parlava di fede e ragione, con Francesco il contenuto sembra in secondo piano, che è un po' quello che dicevamo all'inizio. Guardi Sciortino, non è una, non è nemmeno una provocazione, è proprio una vera e propria riflessione, perché magari il punto è questo, è semplicemente la Chiesa in questo momento ha bisogno di questa cosa qua, insomma, dopo un Papa che sembrava molto lontano dalla gente, l'abbiamo definito marketing, possiamo definirlo in mille altri modi, però era un momento storico nel quale la Chiesa aveva bisogno di una figura di questo genere. Ma io credo che ogni Papa risponde un po' alle esigenze del proprio tempo e credo che in questo momento ci fosse davvero bisogno di un Papa pastore, un Papa che stesse vicino alla gente. E qualcuno appunto si pone il problema, il contenuto resta in secondo piano, ma il contenuto è la testimonianza di vita, il contenuto è incarnato davvero in quello che lui dice, in quello che lui fa. Le opere di teologia si possono leggere, ma la fede va vissuta, va testimoniata concretamente, direttamente, quello che spesso la gente non percepiva e non percepisce tuttora in tanti aspetti della Chiesa è questa coerenza che si annunciano dei valori ma non sempre vengono vissuti. Certo, il Papa stesso ha ripetuto che la Chiesa è fatta di uomini con tutti i loro difetti, con tutte le loro difficoltà, però questo Papa sta insistendo molto sulla pastoralità. I vescovi italiani hanno anche detto che devono essere più pastori, stare in mezzo alla gente, uscire un po' dalla burocrazia, c'è un eccesso, una ipertrofia di burocrazia, mentre c'è bisogno davvero di essere vicino, ed è lo spirito, mi permetto ancora di ricordare, del Vaticano II, la Gaudete Spes, la Chiesa deve stare vicino alla gente, camminare nella storia, condividere le gioie e le speranze, ma anche i dolori e le angosce della gente, e credo che sia questo il volto davvero simpatico della Chiesa, che non nasconde i problemi, perché dicevo di freddo non vede grandi cambiamenti, certo, nessuno ha la bacchetta magica da poter cambiare da un giorno all'altro la storia, però ci sono delle indicazioni, ci sono dei movimenti che portano a dei cambiamenti, e questo questa speranza che si è accesa non solo nella Chiesa ma anche dall'esterno da parte di coloro che guardano la Chiesa è già un cambiamento radicale. Certo, poi dovranno seguire delle azioni, si dovrà forse rifare la riforma dello IOR o azzerare lo stesso IOR. Sì. Il Papa l'ha detto, San Pietro non aveva una banca, non aveva un conto in banca. Se non è essenziale, tutto quello che non è essenziale all'annuncio del Vangelo se ne può fare a meno. Quindi naturalmente ci vuole tempo, l'abbiamo detto, sono 6 mesi di pontificato. Allora, io posso far intervenire 2 ascoltatori, basta che stiate in 30 secondi. Emilio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, in 30 secondi per tanto avete detto bene o male quasi tutto quello che volevo dire. Nel senso che è vero, la Chiesa aveva forse dimenticato il suo cammino, ma l'aveva dimenticato non solo con l'ultimo Papa, ma anche con prima. Prima Giovanni Paolo II con la scusa di abbattere il comunismo, perché è stato utilizzato politicamente per questo, ha dimenticato cos'era la povertà contro la teologia della liberazione in America Latina, e tutto questo ha causato anche da parte dei credenti cioè l'allontanarsi da questa cosa qua. E poi tutta una serie di concatenazioni che sono quelli di Simon Raggi che giocava per dire, no, con Videla a golf o lo York spostava capitali, tutte queste cose hanno contribuito a allontanare i credenti della Chiesa. Oggi hanno bisogno di recuperarli. Grazie. Grazie Emilio. Marcello da Roma, buongiorno. Rapidamente, sì. Purtroppo la Chiesa, come al solito, è maestra nella politica e nel comportamento. Questo Papa, come ha detto il Don Sciortino, è il Papa di questi tempi, e così per l'ennesima volta questo povero popolo italiano sarà privato della possibilità di una formazione, di una coscienza laica, e sarà traghettato e trascinato dal pifferaio di turno. Grazie molte. Mm. Va bene Marcello, questa è la sua opinione. Allora, noi mi sa che non abbiamo ben poco da far parlare, perché i discorsi sarebbero complessi e le risposte sarebbero altrettanto complesse naturalmente, quindi sostanzialmente andiamo in chiusura. I miei ringraziamenti a Don Antonio Sciortino, che è direttore di Famiglia Cristiana. Mi sono dimenticato di ricordare prima, è uscito adesso un libro intervista di Don Antonio Sciortino, intervistato l'editorialista della Repubblica Giovanni Valentini, proprio su Papa Francesco, la morale, la fede e la ragione, dialogo con Don Antonio Sciortino sulla nuova chiesa di Papa Francesco. Un ringraziamento anche a Carlo Marroni, giornalista, vaticanista del Sole 24 Ore, grazie a Pier Giorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista italiano, non so quale sia il suo ultimo libro, però insomma sia di Carlo Marroni che di Pier Giorgio Odifreddi cercate e trovate, internet ormai ce l'avete tutti, voglio ben sperare nel 2013. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marcotulli in redazione. Un ringraziamento come sempre a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani e torniamo sui nostri temi un po' più classici, se vogliamo. Parliamo di economia italiana, di situazione economica italiana, di questo presunta luce in fondo al tunnel che in realtà è un prefisso telefonico. 0,7% è la crescita prevista per il 2014. A domani. Ricordati! Mancano 18 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.